Radio 24. Libera la voglia di fare. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Buona domenica a voi, avete avuto un'ottima idea. Intanto ho iniziato ad accomodarmi, ma ditemi soprattutto, avete messo l'acqua sul fuoco così poi quando bolle buttiamo la pasta? E anche questa domenica festeggiamo mangiando una nuova puntata della bufala in tavola. Attrezzatevi. Intanto il mio ospite è già arrivato, il dottor Stefano Erzegovesi, ma buongiorno, buona domenica, grazie di essere con me. Buongiorno Nicoletta, buona domenica a tutti. Ormai lo conoscete perché è quasi un ospite fisso alla bufala in tavola, ma per chi si fosse sintonizzato solo ora con noi, magari c'è qualcuno che fa la nostra conoscenza proprio oggi, questo me lo auguro. Il dottor Stefano Erzegovesi è un medico, uno specialista in scienze dell'alimentazione, uno psichiatra ed è responsabile di un centro al San Raffaele dedicato proprio ai comportamenti alimentari. L'ho presentata per bene. Perfettamente. Allora, intanto, spaghetti, penne, farfalle, rigatoni, a lei la scelta del formato, dato che è l'ospite, che cosa buttiamo oggi? Ma buttiamo una pasta lunga. Ma ci sono delle differenze o solamente una questione di gusto? La differenza è che la pasta lunga, quindi lo spaghetto, tipicamente la linguina, ha un indice glicemico migliore, perché avendo un rapporto tra superficie e volume che è più verso il volume, meno verso la superficie, tende ad essere assorbito più lentamente. Quindi, insomma, se vogliamo fare una cosa così, lo spaghetto è gioioso, ma oltre che essere gioioso comunque ha anche questo aspetto di salute che, insomma, non trascurerei. Dottor Erzegovesi, me la serve su un piatto d'argento, come a dire, perché io oggi proprio colgo subito l'occasione per parlare di indice glicemico. Perché? Perché da quando ci avete detto che non dobbiamo più farci guidare, orientare dalle calorie, giustissimo, allora ci siamo buttati sull'indice glicemico. Molte diete proprio sono state costruite intorno a questo. Che cosa, come possiamo definirlo? Un indicatore, un valore? Sì, l'indice glicemico è praticamente la velocità con cui un alimento che noi mangiamo viene assorbita e quindi di conseguenza la velocità con cui un alimento fa salire la glicemia nel sangue, quindi fa salire gli zuccheri. Per questo glicemico, infatti il nome suggerisce che abbia qualcosa a che fare con la glicemia, che è la concentrazione proprio di zuccheri nel sangue. Ma sappiamo che gli alimenti hanno tra di loro hanno degli indici glicemici differenti. Molto differenti. I carboidrati hanno un indice glicemico alto, la frutta o la verdura un pochino più basso, ma la storia non è così semplice e non è tutta qui. Dottor Erzegovesi, come possiamo orientarci? Perché sappiamo che l'indice glicemico può cambiare in base anche a tante variabili, a tante condizioni. Tantissime cose. Ad esempio anche al formato della pasta. Pasta lunga, spaghetto, un indice glicemico più basso della farfalla o del rigatone. Ad esempio, diciamo primissima cosa, l'indice glicemico dei carboidrati è quello che ci interessa di più, perché i carboidrati sono più densi, quindi hanno più zuccheri per grammo e quindi di conseguenza vanno visti con più attenzione. Ci sono degli indici glicemici molto alti che sono collegati agli alimenti industriali raffinati, quindi farine bianche, zucchero e altri alimenti. Io non demonizzo mai, nel senso non, come dite, sono veleno, non mangiateli mai, ma sicuramente non possono essere i nostri alimenti quotidiani. Per fare un esempio, il pane bianco piuttosto che lo zucchero hanno degli indici glicemici di 100 o più, così come anche alcuni cereali con molto raffinati. Diversamente, ad esempio, la pasta integrale può avere un indice glicemico che può essere intorno al 50, quindi circa la metà. Quindi, prima indicazione, il raffinato ha un indice glicemico più alto dell'integrale. Più alto. Ma quando noi diciamo quello è un alimento con un alto indice glicemico, vuole dire che ingrassa più di uno che ha un indice glicemico basso? Perché noi questo vogliamo sapere. Ingrassa poi alla fine, nel senso stretto, no, perché poi gli zuccheri che entrano nel sangue sono gli stessi. È vero però che un indice glicemico alto viene assorbito rapidamente, mette in allarme i nostri sistemi di controllo della glicemia, che sono fondamentalmente l'asse insulina e cortisolo. Questa messa in allarme tendenzialmente fa produrre delle sostanze che facilmente ci renderanno un po' più affamati da lì a un paio d'ore che mangiamo. Quindi, tipicamente, se io mangio una cosa ad alto indice glicemico, mi sento immediatamente nutrito, ma nel giro di un paio d'ore potrei avere un colpo di sonno, sentirmi meno concentrato, tornare ad avere fame. Quindi indice glicemico alto vuol dire che probabilmente avremo fame nel giro di poco tempo. Rimangeremo, e comunque il nostro asse insulina-cortisolo sarà un asse più in allerta, e quindi tanta insulina nel sangue significa facilmente una maggior facilitazione all'assimilazione e una maggior facilitazione ad avere anche un livello di infiammazione un po' più alto, che sono fattori, questi sì. Che cosa state preparando? Date un occhio alla vostra tavola, a quello che bolle sul fuoco, a quello che state magari affettando, e provate a, sulle indicazioni, con le indicazioni di Stefano Erzegovese, a vedere se è un indice glicemico alto o un pochino più basso. Intanto anche noi possiamo in qualche modo ridurre l'indice glicemico dei nostri alimenti, ad esempio con la cottura, dottor Erzegovesi. Io ho imparato in tutti questi anni, ci metto anni, però poi alla fine imparo, che ad esempio la cottura al dente abbassa l'indice glicemico. Per questo, ad esempio, la nostra pasta oggi noi la cucineremo bella al dente. Assolutamente al dente, perché chiaramente più il carboidrato viene, diciamo così, inzuppato dall'acqua bollente, quindi diventa più un carboidrato stracotto e quindi sfatto, più viene rapidamente assimilato, perché gli enzimi chiaramente hanno molta più superficie su cui attaccarsi. Un carboidrato al dente invece, da questo punto di vista, a maggior ragione se è di grano duro, quindi pasta italiana, quindi coltivazioni di grano duro al dente. Già il grano duro ha un indice glicemico migliore, proprio perché è duro, rispetto al grano tenero. Dice la parola. Come dire, già viene dalla parola. In più il fatto che sia anche al dente somma due caratteristiche per cui tipicamente, esempio, gli spaghetti anche bianchi cotti al dente hanno un indice glicemico che è ugualmente intorno al 50, e quindi un indice glicemico assolutamente buono. Allora, noi adesso ci fermiamo, intanto voi preparatevi, continuate a restare con noi, se volete invitare qualche amico c'è spazio. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ritorniamo subito dopo insieme. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta La bufala in tavola. Siete tornati, sì, siamo alla bufala in tavola, stiamo gustando un piatto di spaghetti al dente. La scelta del formato e la cottura non è così a caso, ma perché oggi stiamo insieme al dottor Erzegovesi parlando di indice glicemico. Noi ci facciamo orientare da questo indicatore, il nome, come abbiamo detto, suggerisce che ha a che fare con la glicemia. Ci sono un indice glicemico può essere più o meno alto a seconda dell'alimento, ma anche a seconda del modo in cui noi quell'alimento lo cuciniamo. E oggi abbiamo imparato che mangiando la pasta e i cereali al dente, l'indice glicemico che in questi alimenti è alto si riduce. Dottor Erzegovesi, quali altre indicazioni riesce a darci? Perché lei ci dà anche sempre dei trucchetti, anche delle combinazioni alimentari per portare in tavola il gusto e la salute, perché noi un modo un pochino controcorrente a quello che è la comunicazione un po' ormai diffusa e generale, cerchiamo di aggiungere alla nostra tavola e non di togliere. Io certo. sono abbastanza contraria alle persone che continuano a togliere dalla loro dieta senza alcuna ragione, ma solamente per modo, per sentito dire degli alimenti, delle sostanze, perché dottor Erzegovesi, noi ne possiamo più, soprattutto lei che se ne occupa di questo, e soprattutto perché impoveriamo proprio di gusto, di sapore, di nutrienti la nostra dieta, e questo alla lunga non ci porta nulla di buono, né dal punto di vista del piacere né dal punto di vista della salute. Assolutamente, anche perché il vero problema di un'alimentazione senza, che è quella un po' la moda di questo momento, è che la componente sensoriale, tutto quello che succede nel nostro palato, ma di conseguenza dal nostro palato al nostro cervello, la sazietà nasce dal cervello, diventa qualcosa di impoverito. E non ce n'è. Se io ho una sazietà in termini proprio di stimolo cerebrale a fermarmi nel mangiare, che è una sazietà carente, mangerò di più, e quindi magari mangerò delle cose senza, ma delle cose senza magari ripetute nel tempo senza varietà alimentare mi sazieranno di meno. Ecco, quindi assolutamente non mortifichiamoci, non e non solo la domenica ma in tutti i giorni. Tutti cerchiamo i giorni di mettere un po' di buon senso alimentare nelle nostre scelte. Dottor Erzegovesi, controlliamo sicuramente l'indice glicemico, è una buona idea, ci dia qualche dritta per muoverci con una certa competenza nelle nostre scelte. Certo, primissima cosa, e sempre si parla di indice glicemico, rallentiamolo con un condimento, ovvero se io mangio un carboidrato puro, rispetto che un carboidrato tipicamente se mangio la pasta liscia piuttosto col pomodoro liscio, invece mangio una pasta col pomodoro liscio condito con l'olio extravergine, la presenza dei grassi rallenta l'assorbimento, perché chiaramente tutto il processo metabolico a partire da stomaco in giù viene rallentato, ma viene rallentato in termini positivi, perché allora gli zuccheri nel sangue salgono più lentamente, i grassi presenti nell'olio extravergine d'oliva rendono anche più disponibili gli antiossidanti buoni, in questo caso ad esempio che ci sono nel pomodoro, e quindi da questo punto di vista ci troviamo ad avere un alimento che è più salutare, che sicuramente al palato è più buono, perché i grassi per loro natura da un punto di vista sensoriale fanno passare e quindi trasmettono il gusto alle nostre papille in maniera molto più efficiente che non se fossero invece asciutti gli aromi, e quindi da questo punto di vista condiamo sempre, mettiamoci sempre una verdura che può essere una salsa oppure una verdura a pezzetti che ugualmente trae beneficio dal condimento, e cerchiamo, che è l'altra cosa che stimola molto la nostra sazietà e quindi il piacere di mangiare, ma anche il piacere di fermarsi in tempo e quindi di non ingrassare e tutto il resto, cerchiamo di dare anche delle consistenze diverse, quindi magari mettiamo una cosa cremosa, mettiamo una cosa croccante, qualche briciolina di pane fatta saltare in padella, magari con un po' di rosmarino, di timo, mettiamo magari una verdura morbida come può essere una zucchina, ma magari mettiamo dei cubetti di carota un pochino più croccanti e quindi un pochino più di consistenza da masticare. Tutto questo, sicuramente la consistenza è un'area quasi inesplorata della sensorialità, diciamo così, la sensorialità psicoalimentare, ma è un'area importantissima che può cambiare proprio il modo di sentirci sazi ma anche felici di quello che mangiamo. Gli chef lo sanno bene, soprattutto penso al nostro Oldani, sicuramente queste mescolanza di consistenze si usa anche per appagare il gusto, ma lei ci sta svelando l'altro lato, quello per la salute. E poi, dottor Erzegovesi, mi è piaciuto perché lei parla di grassi. Fino a qualche tempo fa era quasi impensabile sentire un dutour che ti diceva: mi raccomando, la pasta conditela, sì, perché sì, c'è stato, oh mamma mia, i grassi sono stati banditi a lungo tempo, si è fatto di ogni erba un fascio, adesso vuol dire che insomma se la ricerca va avanti e finalmente i grassi tornano ad avere un ruolo importante nella nostra dieta, non solo per il nostro gusto ma anche proprio per l'apporto di nutrienti che sono in grado di dare. Ci dia qualche indicazione, perché questo è un mese generoso e ricco, naturalmente non ci toglieremo nulla, i piatti della nostra tradizione sono spesso anche belli conditi e ricchi. Due indicazioni all'Erzegovesi per non rinunciare a nulla, ma quindi, stare bene. Quindi prima cosa i grassi, verissimo, c'è stato grande pudore nei nutrizionisti per decine d'anni rispetto ai grassi. Finalmente oggi si comincia a dire: i grassi non sono, vabbè, se proprio non potete farne a meno metteteli, ma i grassi sono, vanno messi, nel senso che i grassi servono a tutti gli effetti per migliorare, dicevamo, la sazietà, e servono a tutti gli effetti per migliorare il funzionamento delle nostre membrane cellulari, quindi non se ne può fare proprio fisicamente e psichicamente a meno. Io do un'indicazione che di massima vale per tutti, cioè che uno pesi 200 kg o che uno pesi 20 kg, di base c'è una quantità minima che sono l'equivalente di 2 cucchiai da tavola di olio d'oliva più una manciata, una quindicina di grammi di frutta a guscio, per quindi noci, nocciole, mandorle, piuttosto che semi oleosi, piuttosto che 2 quadretti di cioccolato, è una base minima sotto cui secondo me nessuno deve andare. Anche una persona a dieta stretta, queste diciamo così 3 unità di grassi, e quindi queste quelle che possiamo chiamare 3 unità di sazietà, ci vogliono sempre. Dopodiché arrivano le feste. Lei perfetto. Mi piace sempre di più, quindi olio extra, lei ha detto olio d'oliva extravergine. Extravergine d'oliva, meglio se italiano, perché comunque vuol dire un olio extravergine che non ha fatto tanta strada, che è più ricco di antiossidanti. E poi non dimentichiamo che in Italia esiste una varietà aromatica enorme degli oli, bellissima, per cui io posso avere un olio molto leggero, Liguria, Garda, posso avere un olio un po' più piccante, più saporito, Toscana, Puglia, degli oli intermedi, Sicilia, Sardegna, e questo ce l'abbiamo solo noi. Quindi poi mi ha messo la frutta secca, però frutta non secca. Quella salata. Frutta secca, ecco, al naturale, tostata se ci piace, 180 gradi per 5 minuti in forno. Possiamo distribuirla nel corso della giornata, colazione, possiamo metterla nell'insalata, possiamo sgranocchiarla come snack, fate spuntino, quello che volete, sì. Spuntino e il cioccolato. Cioccolato si può. Si può. Si deve se vogliamo, ma si può. Dottore Rzegovesi, io di fronte a questi inviti di suoi e anche di tanti suoi colleghi di arricchire la nostra dieta, penso invece a tante persone che la dieta invece, come dicevamo in anticipo, in apertura, tendono a impoverirla, ma anche a chi proprio sull'onda di questa informazione sull'alimentazione, sulla qualità dei cibi, sull'origine dei cibi, sta quasi diventando ossessionato, e c'è un'attenzione che secondo me non è quasi naturale a tutto quello che portiamo in tavola. Anche in questo caso, buon senso, lei si occupa di disturbi alimentari, ci sono dei segnali che noi possiamo intercettare e capire che la nostra attenzione nei confronti del cibo buono, del cibo salutare, del cibo che fa bene è eccessiva, non è salutare? Assolutamente sì, si parla in questo periodo molto della cosiddetta ortoressia, quindi della fissazione per il cibo sano. Sono persone che, partendo da un'indicazione giustissimamente salutista, quindi certe cose vanno mangiate in una quantità giusta, bisogna migliorare la quantità di cose salutari e ridurre la quantità di cose potenzialmente meno salutari, che va benissimo, da qui diventa un'ossessione. Quindi il problema non è più bisogna limitare l'eccesso di certi alimenti, ma il problema diventa bisogna assolutamente evitare certi alimenti come se fossero veleno. L'identikit della persona con l'ortoressia la riconosciamo semplicemente andando a fare la spesa, esatto, in un supermercato. Ci sono persone che mangiano salutare, che sono estremamente presenti, attente, di buon umore, facili alla relazione con gli altri, quindi tutta la componente poi della convivialità, quindi del comunicare attraverso il cibo. L'ortoressia diversamente ci comporta prima di tutto una chiusura verso il mondo esterno. La persona ortoressica diventa una persona che, per dovere rispettare delle regole così rigide, quindi ad esempio che si è dato da solo e che normalmente è una, e questo la rende molto insidiosa, è qualcosa che ha un andamento molto lento e molto graduale, quindi magari comincio a togliere, non lo so, lo zucchero bianco, poi tolgo le proteine animali, poi tolgo i cibi in scatola, piuttosto che una serie di cose. Il problema è che noi vediamo queste persone che fanno la spesa, che sono persone assolutamente preoccupate, totalmente concentrate sul loro piccolo mondo, in quel momento delle etichette dove devono leggere la presenza di possibili sostanze tossiche. La cosa da considerare dell'ortoressia: un tempo si diceva l'ortoressia fa male alla psiche, nel senso che chiaramente l'ossessione ci porta a sbalzi d'umore, isolamento dagli altri, eccetera. Attenzione, l'ortoressia fa male anche al corpo, perché se noi siamo ortoressici siamo talmente stressati e quindi abbiamo dei livelli degli ormoni dello stress, tipicamente il cortisolo, talmente alti che poi ci ammaliamo di più anche fisicamente. Quindi con l'idea che dobbiamo proteggerci dalle malattie mangiando sano, in realtà poi ci ammaliamo di più degli altri. Un pericoloso autogol. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa. Dottore Rzegovesi, lei nel frattempo non stia con le mani in mano, voglio che mi prepari qualche cosa, o pensi. Penserò. Ecco, a che cosa raccontarci nella seconda parte della Bufala in tavola. Ci raggiungeranno naturalmente altri ospiti. Restate con voi e chiamate qualche amico. State ascoltando un programma offerto da... Aceto balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. La bufala in tavola. Voglio presentarvi il nostro prossimo ospite, il professor Lorenzo Morelli, microbiologo all'Università Cattolica. Buongiorno professore. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Io al tuo ospite. Grazie, io l'ho invitata perché noi alla Bufala in Tavola prepariamo da mangiare e con lei vogliamo dare da mangiare ai tanti ospiti che abbiamo nella nostra pancia. Io voglio per lei parlare del nostro microbiota e quindi vogliamo festeggiare anche a lui. Dobbiamo pensare anche ai batteri, quelli buoni che vivono nella nostra pancia e che hanno un ruolo così importante per la nostra salute psicofisica e che noi dobbiamo alimentare in modo adeguato e corretto, professor Morelli. Assolutamente sì, il nostro intestino contiene una quantità di batteri che è molto superiore come numero alle cellule che fanno tutto il nostro corpo e sono quelli che mangiano quello che mangiamo noi, perché il loro nutrimento è esattamente la nostra dieta, il cibo che ingeriamo. Quando noi parliamo di microbiote, di batteri, pensiamo anche a, immediatamente a degli alimenti che noi abbiamo così percepiamo come molto salutari e penso ai probiotici, non so se posso definirli alimenti, ma questo me lo deve dire lei. Sì, sì, i probiotici che sono dei batteri di solito selezionati fra i lattobacilli e i bifidobatteri, sono gli ingredienti di alimenti o di integratori alimentari e quindi a tutti gli effetti costituiscono una parte di una categoria di alimenti. Professore, in questa stagione sappiamo che siamo sottoposti a diversi stimoli stressogeni, per il fine dell'anno siamo particolarmente stanchi, ne parlavo proprio ieri a Obiettivo Salute Weekend, abbiamo l'influenza che ci minaccia, le forme parainfluenzali, abbiamo anche probabilmente in questo mese delle occasioni di incontro in cui si beve magari un pochino di più, si mangia qualche piattino in più, insomma tutto questo sorta di stress può in qualche modo ripercuotersi sul benessere del nostro microbiota. Cosa possiamo fare? I probiotici possono darci una mano? Sì, la risposta molto secca, molto chiara è sì, teniamo anche conto che d'inverno si frequentano di più degli ambienti chiusi, dove l'aerosol, diciamo, del nostro corpo, della nostra bocca, può essere un veicolo di virus o batteri non decisamente favorevoli per la nostra salute. Però la salute del nostro intestino dal punto di vista microbiologico è data dal rapporto fra la quantità di batteri buoni e la quantità di batteri non buoni, chiamiamoli così, senza andare magari anche a scomodare i patogeni, perché anche noi che stiamo parlando in questo momento, nel nostro intestino sicuramente abbiamo una certa quantità di batteri non decisamente favorevoli per la nostra salute, ma basta che rimangano in un numero basso, quindi non c'è l'assenza di rischio, l'assenza di batteri patogeni o comunque non favorevoli, ma è un discorso di numero. Allora, se riusciamo a ingerire giorno per giorno una quantità di batteri invece che li contrastano, ecco che ci garantiamo la salute. Teniamo anche conto di una cosa, che molti degli alimenti che ingeriamo per motivi di conservazione sono stati trattati con pastorizzazione, sterilizzazione, cioè sono stati privati dei loro batteri. Il che va bene dal punto di vista della sicurezza alimentare, però ci leva quei batteri buoni che ci aiutano, di giorno per giorno ci aiutano. Sì. Senta, professor Morelli, volevo chiederle, a proposito di bufale, siamo alla Bufala in Tavola, ci sono delle bufale, delle leggende metropolitane sui probiotici, sui fermenti lattici, a cui noi abbiamo dato l'etichetta di qualcosa che ci fa bene? Ma allora, esistono delle diete dimagranti che si basano sull'ingestione di probiotici. Ora, i probiotici fanno tantissime cose buone, ma che possano far dimagrire, questo è tutto da dimostrare. In effetti ci sono degli studi abbastanza recenti su dei batteri che diciamo, sono coadiuvanti nelle diete dimagranti, ma non ci sono ancora in commercio, non sono quelli che troviamo negli alimenti e negli integratori alimentari. Saranno probabilmente nei prossimi 5-6 anni la base di farmaci, perché non sono batteri che normalmente l'uomo consuma. Quindi questo legame fra probiotici e capacità di perdere peso è decisamente una bufala. Dottore Resegovesi, che ne pensa? Sì, assolutamente d'accordo. Partendo dalla prima cosa che diceva il professore, qualsiasi alimento trattato e quindi che perde la sua naturale popolazione batterica è sicuramente un alimento che stimola meno una popolazione amica, diciamo, a livello di probiotici, che è il motivo per cui io consiglio spesso di assumere degli alimenti fermentati, che sono degli alimenti che semplicemente per il fatto di essere tutti in salamoia per un certo tempo sviluppano una grande quantità di lattobacilli. È piena la tradizione di tutti i paesi di alimenti fermentati, possono essere i crauti, possono essere in Germania, può essere il kimchi in Corea o tanti altri. Gli alimenti fermentati tendono ad avere una quantità di lattobacilli buoni con un effetto naturalmente probiotico, ma esattamente come tutti gli alimenti presenti in natura. Quindi gli alimenti freschi, i vegetali freschi, sono per loro natura ricchi comunque di batteri. Gli alimenti trattati, che va benissimo trattarli se questo è un motivo di sicurezza, è vero che non possono essere gli unici alimenti che noi mangiamo. Professor Morelli, sotto la sua lente di microbiologo finiscono tante bufale, tante notizie che sono del tutto false o false in parte. Che cosa ha trovato per noi questa settimana? Ma ad esempio possiamo parlare del ruolo, diciamo, di selezione che viene fatto da diverse aziende per proporre ai consumatori dei prodotti da forno, dei prodotti, diciamo, pani, biscotti, eccetera, fatti con quelli che vengono chiamati grani antichi, i grani vecchi, e che vengono venduti come più naturali, meno manipolati del grano normale. Ora, non entrando nel merito di questo, però bisogna andare a vedere che cosa si intende per grano antico, perché tutti i cereali, soprattutto il frumento, dagli anni 20 in poi, quindi da un buon 100 anni in poi, sono stati trattati con i raggi X per migliorare la produttività, una specie di ingegneria genetica, diciamo ante litteram. Questo non ha portato evidentemente a nessuna conseguenza per la salute del consumatore. Sono 100 anni che mangiamo ad esempio il grano Creso, un grano italiano che però deriva da un'opera di selezione genetica attraverso i raggi X. Quello che il consumatore deve essere informato è che è possibile che questi grani antichi siano quelli che sono stati trattati con i raggi X. Con i raggi X sono stati trattati sostanzialmente tutti i frumenti che stiamo utilizzando, non c'è nessun pericolo, però il fatto di usare il grano antico non dà una differenza ad altri grani. Professor Morelli, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata, l'aspetto per una nuova puntata della Bufala in Tavola. Grazie dell'invito, è sempre un piacere. Buona domenica. Dottor Resegovesi, mi ha incuriosito e vorrei una ricetta, quando lei a proposito di probiotici ha parlato di alimenti fermentati, ha citato i crauti, a me veniva in mente il kefir, che è un latte fermentato, ma concretamente cosa possiamo fare? Partiamo dal kefir. Se vuole un po' di madre di kefir ce l'ho a casa, allora magari sì, gliela porto. Va bene. Il kefir è un probiotico interessante perché, diversamente dallo yogurt, che ci fa benissimo perché comunque è un alimento, diciamo, predigerito e quindi molto assimilabile, molto nutriente. Il problema è che i due ceppi che vengono a fare lo yogurt sono ceppi che resistono poco agli acidi, e quindi nel momento in cui noi lo mangiamo sono fermenti che normalmente a livello di stomaco, che è acido, vengono uccisi, diciamo. Quindi così non arrivano a destinazione, in fondo dove devono arrivare. Il kefir invece è una popolazione batterica molto più ampia, che è un equilibrio, un vero ecosistema batterico, e riescono ad essere in questo senso più probiotici, quindi ad arrivare dove devono arrivare, cioè nel colon. Ugualmente le verdure fermentate. Ricetta semplice ma assolutamente utile e anche interessante da un punto di vista gustativo. Prendiamo delle carote, o comunque prendiamo una verdura un po' fibrosa. Carote, rape, rapanelli, sedano rapa, cavolo navone, quello che vogliamo. Le mettiamo in una salamoia al 3%. E allora, cioè? 30 grammi di sale in un litro d'acqua. Ok. Facciamo delle fette, facciamo dei bastoncini, facciamo la forma che ci piace di questa verdura, la mettiamo in un vaso, ci mettiamo questa salamoia a coprire, lasciando circa un centimetro rispetto alla, al bordo alto per evitare che poi magari trabocchi, chiudiamo il vaso ermeticamente, i classici vasi da conserva vanno benissimo tutti, e lo lasciamo a temperatura ambiente per circa un 10 giorni, 10-15 giorni. Mm. Cosa succede? La salamoia, essendo una sostanza inibente la crescita batterica, seleziona i batteri, per cui i batteri che non ci piacciono tendono ad eliminarsi, i batteri utili, che sono appunto i lattobacilli cosiddetti alofili, cioè che resistono al sale, crescono. E quindi nel giro di 2 settimane noi avremo un prodotto che in termini gustativi ha il sapore, diciamo, del cetriolino piuttosto che al sapore dell'oliva in salamoia, c'è un sapore leggermente piccantello e molto stuzzicante da un punto di vista sensoriale, e contemporaneamente è un pieno di lattobacilli. E quindi a questo punto mettiamoci, non esageriamo perché c'è il sale, quindi occhio che poi a maggior ragione se siamo ipertesi. Bisogna, ecco, se no, però... aggiunte, delle piccole aggiunte. Piccole aggiunte, mi veniva in mente quando lei diceva i batteri quelli cattivi si eliminano e quelli buoni, chissà chi vorremmo mettere in salamoia, utilizzare la salamoia per selezionare, potrebbe essere un'idea. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. La bufala in tavola. Senti come mangio. Ultima parte della bufala in tavola con l'appuntamento Senti come mangio, a cui il dottor Erzegovesi ha partecipato in diverse occasioni, e ritorna Senti come mangio, io mangio italiano, dottor Erzegovesi. L'italiano non si sbaglia mai. Dicevamo prima, rispetto agli oli extravergini, quante varietà in termini sensoriali e gustativi, quindi dal più piccante al più delicato al più dolce, quanto questo significa poi avere anche un apporto di polifenoli, che è una parte antiossidante importante dell'olio extravergine d'oliva, e quindi quanto io credo in nessun paese come l'Italia ci sia la possibilità di avere una varietà sia di prodotti differenti sia dello stesso prodotto coltivato in diverse aree, in termini di gusto, di colore, di sapore, di qualità salutare, e quindi assolutamente cerchiamo di mangiare ciò che è vicino a casa nostra, cioè italiano. Mangiamo quindi italiano per tante buone ragioni, anche per il gusto, per la salute, d'altronde siamo i migliori e il mondo ci imita. Non ce n'è, da un punto di vista della qualità alimentare non ce n'è, ma probabilmente insomma anche tutta questa concentrazione di geni del passato, dal mio punto di vista, si lega al fatto che un clima e un tipo di coltivazione come ci sono in Italia, che è un paese mediterraneo, ma un paese mediterraneo particolare, dove ci sono anche le montagne, dove ci sono una serie di escursioni termiche, non credo che abbia uguali nel mondo. Quindi insomma, senza essere sciovinisti, consideriamolo come una caratteristica reale della nostra condizione, ma che si deve anche rendere veramente orgogliosi. Belli, buoni, sani, insomma facciamo scuola, i migliori, per questo siamo i più imitati. Ma come dicevo, una pubblicità, diffidate dalle imitazioni, meglio l'originale. Anche questa è la mission di una campagna di valorizzazione del cibo autentico italiano. È in linea con noi per raccontarcela la dottoressa Pina Costa. Buongiorno. Buongiorno, si accomodi anche lei, dottoressa Costa, alla tavola della bufala in tavola. Lei è referente di Asso Camera Estero e si sta occupando di questa campagna di promozione strategica per la valorizzazione del prodotto italiano anche all'estero. Ce la racconta? Sì. Sì, eccoci. Allora, noi come Camere di Commercio Italiane all'Estero stiamo lavorando in questo momento sia in Europa che in Stati Uniti, Canada e Messico. Presto lavoreremo anche in alcuni paesi dell'Asia per promuovere il prodotto italiano autentico. Perché? Il prodotto italiano autentico nel food. Tutti pensiamo, in fondo siamo un paese che esporta 40 miliardi di prodotti italiani. 40 miliardi? Beh, è già lunga scriverla. Il fatturato del 2017 delle nostre esportazioni arriverà a questo, eppure ci sono circa 60 miliardi di falso made in Italy, cioè di made in Italy che in realtà viene imitato. Quindi vogliamo promuovere un consumo consapevole del prodotto italiano affinché il consumatore straniero scelga consapevolmente il prodotto italiano e sappia che cosa porta in tavola. E questo è molto importante perché il nostro, come dicevamo prima, è un prodotto di eccellenza e noi vogliamo promuovere l'eccellenza. Quindi le imitazioni il mercato le ammette benissimo, noi invece vogliamo che il consumatore sappia cosa porta in tavola, e il consumatore estero sempre di più vuole saperlo, così come anche il consumatore italiano ovviamente. Certo, a quello ci pensiamo noi, dottor Erzegovesi, in tutte le puntate della Bufala in Tavola e non solo, in generale a Obiettivo Salute noi lavoriamo molto per dare informazioni, per educare l'ascoltatore a delle scelte consapevoli, salutari, che fatte sulla base di informazioni certificate, dottor Erzegovesi. Certo, ma questa è l'importanza adesso delle etichette, che sempre più, grazie al cielo, diventano etichette trasparenti, che presentano proprio il prodotto in tutte le fasi della filiera, che vuol dire fondamentalmente, se io mangio una mozzarella italiana, è importante che sia italiana la mozzarella, nel senso che è stata fatta in Italia, ma è importante che la cagliata e il latte di provenienza, e quindi la mucca e quello che ha mangiato la mucca, possono essere tutte all'interno di una filiera italiana. Questo rappresenta una maggiore sicurezza di qualità alimentare, ma soprattutto rappresenta una maggiore sicurezza che un latte che è vicino a casa mia sicuramente è un latte che ha dovuto fare un percorso e quindi ha dovuto subire dei trattamenti molto più leggeri e delicati, quindi sicuramente con un potere nutrizionale migliore. Dottoressa Costa, il dottor Erzegovesi ha parlato di mozzarella, mi vengono in mente subito le bufale. Ci sono delle bufale che circolano all'estero e quindi in un mercato che lei conosce bene sul Made in Italy? Sì, allora, dalle bufale, per tornare alla mozzarella, visto che la mozzarella è il prodotto più imitato nel mondo, cioè la zottarella in Germania, per esempio, e alle bufale circa il nostro modo di mangiare, il fatto che in America credano moltissimo, ma non solo in America, che il cibo italiano sia un comfort food, qualcosa che si mangia così, quando vuoi fare uno strappo alla regola, quando vuoi mangiare in un certo modo, un po', come dire, riempendoti ma coccolandoti. Che non hanno capito nulla. No, senza infatti, offesa, infatti. Cioè, per essere un po' diretta ma senza offendere nessuno, forse non ci siamo fatti conoscere adeguatamente, per questo lavorate, dottoressa Costa, proprio a valorizzare, cioè, no, che poi che il cibo italiano sia anche, no, un cibo che ti dà grande soddisfazione, perché non è un caso, ha dietro alle spalle una tradizione, questo ci piace, ma che sia un comfort food nel senso negativo un po' del termine, questa non me l'aspettavo, questi americani sono bizzarri. Forse l'accoglienza italiana, io credo sempre di più attraverso questi programmi riusciamo a conoscere, non solo a far conoscere i nostri prodotti, ma anche a conoscere il consumatore estero, e quello che noi vediamo è che quando si pensa all'Italia, quando si pensa all'accoglienza italiana, si pensa a qualcosa di caldo, di confortevole, di friendly, e quindi anche il cibo che è buono, inserito in questo contesto di grande umanità che viene associata comunque agli italiani, diventa un cibo comfort. Ma è proprio per questo che noi vogliamo promuovere un'immagine dell'Italia di eccellenza anche nella sostenibilità, anche nella ricerca e soprattutto anche nell'innovazione dei prodotti. Dottoressa Costa, che dire, buon lavoro. Quindi noi un cibo italiano apprezzato anche all'estero per la sua componente naturalmente di gusto, di sapore, di comfort, ma soprattutto sempre un cibo di qualità. Dottor Erzegovesi, chiudiamo la nostra così puntata della Bufala in Tavola con una riflessione, un commento, un augurio. Sì, ma abbiamo parlato di cibo italiano, dicevamo cibo italiano sicuramente confortevole, però attenzione, l'alimentazione che, ironia della sorte, gli americani, un americano che è Ansel Keys ha definito alimentazione mediterranea, che è quella per cui noi viviamo più a lungo, ma soprattutto viviamo meglio e con una qualità di vita mentale e fisica migliore anche da anziani, è fondamentalmente un'alimentazione contadina. Quindi vuol dire un'alimentazione sicuramente confortevole, come può essere confortevole un cibo che ci ristora, ma che non è in alcun modo un'alimentazione pesante o da associare alle feste, ma è a tutti gli effetti un'alimentazione quotidiana, che vuol dire cereali integrali, legumi, ortaggi di qualità, piccole quantità ma di alta qualità di carne, pesce, proteine animali, formaggi, uova, di tutti gli altri tipi, e soprattutto essere felici di mangiare quello che abbiamo nel piatto. Buon appetito a tutti, allora buona domenica, dottoressa Costa, buon lavoro, ma si riposi un po' anche lei. Dottor Arzegovesi, noi ci sentiamo alla prossima, e invece con gli amici noi ci sentiamo domani a mezzogiorno con Obiettivo Salute. Buona domenica da Nicoletta.